credo che sia molto importante. Noi l'abbiamo scritto sul manifesto, un manifesto che in parte avevamo già scritto per il 40° anniversario, però il 6 aprile di quest'anno abbiamo avuto la conferma in primo grado che quello che avevamo scritto per il 40° è perfetto. Perciò dire, credo che sia un fatto estremamente importante. Adesso ci sarà l'appello e la Cassazione. Teniamo presente che, come non si voleva fare questo processo, io credo che faranno di tutto per cercare di crearsi dei problemi e di smontare queste accuse, ma sarà molto difficile, anche perché ci sono i documenti di pagamento, ci sono i documenti, lettere eccetera, che lo affermano. Non è più una supposizione o un indizio, ci sono delle prove, e credo che questo sia un fatto determinante per, insomma, siamo a un passo per la verità, e anche tutte le inchieste giornalistiche che stanno venendo fuori, che vedono una continuazione con le stragi di mafia eccetera, credo che questo sia un fatto che fa vedere come l'evoluzione del quadro, per guardare quello che è stato, diciamo così, l'iter criminale politico del nostro paese, si va sempre più depanando, e spero tanto che la verità completa sia ad un passo, anche se molta gente è già morta, insomma. Che cosa chiederà il ministro Bianchi? Il ministro Bianchi, di solito quando arriva il ministro, è lui che deve dire qualche cosa a noi. Abbiamo presentato una legge che c'era l'impegno del governo e di tutti i partiti per farla approvare, e poi è caduto il governo. È chiaro che adesso la cosa è ferma, bisognerà aspettare la prossima legislatura. Io mi auguro che l'impegno che c'è stato prima della caduta del governo ci sia anche per il prossimo governo, chiunque sarà al governo, insomma. Continuare con la desecretazione degli atti. Sì, beh, questo è un fatto che ormai sta andando avanti, stanno desecretando, oltre che desecretando gli atti, stanno digitalizzando gli atti, molti atti che sono depositati nel Tribunale di Roma li stanno digitalizzando, e con la digitalizzazione secondo me ci saranno molti passi in più che potranno essere fatti verso la completa verità. Se ci saranno degli ostacoli li denunceremo con forza. In questo 2022 ci sarà una novità importante, cioè la sede dell'associazione sarà a Palazzo d'Accursio, e dobbiamo dare atto alle istituzioni che hanno investito particolarmente sulla digitalizzazione degli atti. Beh, certo, tenete presente che sono anni che la regione Emilia-Romagna ha digitalizzato tutti gli atti dei processi di terrorismo e stragi eseguiti a Bologna. Processi fatti a Bologna sono stati tutti digitalizzati, e questo ha permesso sicuramente di avere una banca dati importante che, unita agli altri, i documenti delle altre stragi, ci ha permesso poi di arrivare ai risultati a cui siamo arrivati. Per trovare un lato positivo c'è anche l'impiego e la partecipazione dei giovani, che a livello artistico, grafico e musicale vengono coinvolti nella comunicazione. Certo, tra l'altro noi abbiamo un rapporto molto stretto con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, che ci permette ogni anno di fare sia il manifesto per il Comune di Bologna, ed solitamente questi sono manifesti che non è che vengono fatti così, si fanno degli incontri e si spiega qual è la vicenda del momento, cosa stiamo attraversando di questo passo. E anche il momento, il manifesto di quest'anno è un manifesto che ha il sapore di una di quelle carte pezzettate che ci hanno mandato, ma che si comincia a intravedere la verità completa, come affiora dall'ultimo processo che è finito il 6 aprile di quest'anno. Quindi una comunicazione mirata e calibrata a seconda del contesto attuale che ogni volta si presenta. Da questo punto di vista anche il concorso del Teatro Comunale sulle nuove composizioni, scritte appositamente per il 2 agosto, si è da sempre messo in questa ottica. Esatto, e anche questo è importante, perché non solo a livello italiano ma a livello mondiale si ricorda questa strage, e come vedete ci sono persone che hanno vinto, che sono dell'Iran, addirittura delle menzioni fatte a dei cinesi e via di questo passo. Perciò stiamo parlando di un concorso concorso che ha preso piede a livello mondiale. Ricordiamo che il concerto di quest'anno sarà trasmesso in diretta su Rai 5 e su Radio 3, e su Rai 5, se ho ben capito, seguirà un documentario. Sì, io so che il documentario sarà in piazza e alla fine del concerto ci sarà un documentario, un minuto dal titolo Un minuto di silenzio, che parlerà della nascita dell'associazione e di questo percorso di 42 anni fatto dall'associazione. Sono stato affascinato dall'accenno che lei ha fatto su questo filmato dell'ascensore, può dirci qualcosa? Il filmato dell'ascensore è un filmato che è stato fatto anni fa, che è stato prima riproposto perché dal filmato si è passati alla trasformazione in cassetta, no? In digitale, in modo che potesse circolare riprese. Adesso è stato portato, diciamo, nell'area asiatica e è stato apprezzato moltissimo, e dopo il 2 agosto, in settembre praticamente, verrà portato in Asia e ha avuto un successo notevole, e speriamo che anche lì, anche questo faccia meditare, faccia pensare. Ecco.